Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Emanuela Piovano di Kitchen Film, che distribuisce il film A Son Image di Thierry De Peretti, al cinema da giovedì 28 agosto 2025. Ben trovata! Buongiorno a voi, ben trovati voi, grazie. Che film è questo? Questo è il quarto film di Thierry De Peretti che noi seguiamo fin dall'inizio, fin da Una vita violenta. Lui nasce come attore, e tra l'altro uno degli ideatori anche del film di Valeria Bruni Tedeschi, Les Amandiers, perché sono stati compagni di scuola, la scuola francese di recitazione di questo autore adesso mancato. E lui è tanto corso, è di questa generazione comunque degli epigoni del separatismo corso, che è sempre molto vivo, anche se è molto datato, però è sempre molto vivo, e quindi lui nei suoi film come autore indaga su questi aspetti del separatismo, ma anche della violenza tra gli adolescenti. Per esempio nel suo primo film, che era Les Apaches, Apache prendeva spunto da un delitto efferato di adolescenti sempre in Corsica. Poi sfiora il genere con Una vita violenta. In ogni caso quest'ultimo film è tratto da un romanzo sempre di uno scrittore corso, Ferrari, ed è molto particolare perché che estende un po' la sua ricerca del separatismo corso agli teatri di guerra degli anni Ottanta. Quindi è una grande riflessione sulla guerra, e la protagonista è una ragazza ventenne negli anni Ottanta, che è la protagonista anche del libro di Jérôme Ferrari, e che un po' come regista cerca disperatamente di tenere le distanze, nonostante sia innamorata di uno dei capi del fronte di liberazione corso, destinati sempre tutti al martirio, alla morte certa, insomma, con i loro vari attentati. E però anche reporter, quindi questa ragazza fotoreporter, c'è tutta una riflessione sulla fotografia, sul rapporto tra le immagini, la storia e la quotidianità, e che cerca anche lì di impegnarsi politicamente, di fare dei servizi per Corso Matin, che è il giornale ufficiale della Corsica, e che invece ovviamente cercano di occuparsi solamente delle gare di bocce, del gossip, e non affrontano i temi cruciali che in quegli anni erano appunto i vari, come sempre peraltro, teatri di guerra. Quindi è un film che amplia l'orizzonte di Thierry, che è un regista nato alla fine degli anni 60, anni 70. In questo film lui lo vediamo anche recitare nel ruolo del parroco. È un film molto corale, molto importante anche perché ci sono tantissime scene di massa, anche ci sono tantissime scene storiche. È stato a Taormina perché l'ha subito voluto Marco Müller, e anche Iarussi a Bari abbiamo fatto un evento. Insomma, è un film su cui riponiamo molte aspettative. In Corsica cosa ha suscitato? In Corsica, beh, lui ormai è un mito per i corsi, perché comunque lui ha un atteggiamento estremamente scientifico, si sente che lui ama profondamente i personaggi così radicali, quindi c'è un grandissimo legame. Per esempio veniva fuori molto bene in Una vita violenta, e anche poi nell'unico film che non abbiamo distribuito noi, suo è L'infiltrato. C'è sempre questo tema di cercare di amare profondamente questi personaggi e di capirne fino in fondo i risvolti, e quindi comunque è un personaggio delle istituzioni, se vogliamo, che cerca di capire, quindi è molto amato. Che uscita sarà? Farà un'uscita Kitchen Film, quindi sempre pian pianino. Per esempio a Roma c'è in due sale, ce l'hanno proprio chiesto, perché noi poi siamo come filosofia, non sgomitiamo mai molto, non siamo prepotenti, aspettiamo sempre il nostro turno e quindi questo è molto penalizzante in genere, però nello stesso tempo dà anche delle soddisfazioni quando invece le cose poi funzionano un po' da sole. Noi più che dare il supporto della comunicazione, del passaparola, poi riteniamo sempre che i film debbano farsi spazio da soli, e quindi già questo è molto positivo, che a Roma esca in due sale che il Medico ci abbia chiesto. E poi anche a Milano dovrebbe uscire sia al Centrale che all'Arlecchino, e quindi per noi è già una cosa importante, e nonostante il film sia sottotitolato, perché in Una vita violenta l'avevamo doppiato, però questo per scelta non l'abbiamo doppiato, perché talmente un melting pot anche lì, perché lei poi parte, lei va in Jugoslavia, per cui parlano in tantissime lingue, e quindi è bello proprio questa sinfonia che poi lui rappresenta benissimo, perché lui utilizza molto i campi lunghi, quindi vediamo queste scene di massa come se tu fossi sempre veramente lì, non c'è mai un tentativo di psicologizzare o di interpretare, c'è un atteggiamento molto teatrale, molto da fotografia, con un unico obiettivo 50, e quindi è molto molto interessante questa cosa della documentazione, e quindi non l'abbiamo doppiato perché ci piaceva molto anche con le parole che ci fosse questa distanza vicinanza. Alcune parti sono in lingua corsa. Sì, ci tengono molto i militanti, tra di loro hanno come dei codici, dei gerghi. Ci dai riferimenti web per sapere le sale dove verrà proiettato? kitchenfilm.com, c'è il sito, o EU, la stessa cosa, e poi i social, Instagram, sempre della Kitchen Film comunque, il film a son image, ritratto di una fotografa. Di Thierry De Peretti al cinema da giovedì 28 agosto 2025, un saluto e un ringraziamento ad Emanuela Piovano di Kitchen Film che lo distribuisce. Alla prossima! Grazie, grazie mille allora e buon cinema! Con Michele Sancisi di Wanted Cinema, che distribuisce il film Sconosciuti per una notte, di Alex Lutz al cinema da giovedì 28 agosto 2025. Ben trovato. Ben trovato a te e ai tuoi ascoltatori. Raccontiamolo brevemente. Sconosciuti per una notte, titolo originale Un Nuit, ci è piaciuto subito, un film che definiremmo completo perché è un film d'autore. Alex Lutz è un regista, uno sceneggiatore di valore in Francia, un personaggio conosciuto nel cinema d'autore, ma il film che ha realizzato con la complicità dell'attrice Karine Viard è anche un film molto godibile, molto romantico e adatto al pubblico di ogni tipo, con particolare riferimento ovviamente alle coppie di innamorati, e quindi è un film sul quale puntiamo molto per la conclusione della nostra programmazione estiva, che abbiamo voluto anche quest'anno tenere sempre viva per tutto il corso dell'estate. La trama è per certi versi sorprendente, ma la maggiore sorpresa arriva nel finale. In una Parigi notturna affascinante, due sconosciuti si incontrano, anzi si scontrano casualmente in metropolitana, iniziano a litigare, c'è un battibecco in mezzo agli altri passeggeri stanchi dopo la giornata di lavoro, poi questi due litiganti escono insieme alla stessa fermata e la loro rabbia si trasforma piano piano in seduzione e cominciano a parlare, trascorreranno insieme un'intera notte in giro per Parigi e alla fine di questa nottata scopriremo qualcosa che getterà una luce completamente diversa su questa loro strana relazione. È un film delicato, intenso, romantico e alla fine anche sorprendente. Che circuitazione ha avuto all'estero? Noi l'abbiamo preso a Cannes, dove Alex Lutz era tornato dopo alcuni anni di assenza. A Cannes era presentato nella sezione Assertarregarde, il film è poi uscito in Francia e anche in altri paesi come Paesi Bassi, Olanda, Ucraina, Svezia, Turchia, eccetera. Noi arriviamo un po' per ultimi dopo questo lungo ciclo del film, che è comunque stato apprezzato in diversi paesi europei. Di Alex Lutz cosa sappiamo? È un cineasta a tutto tondo, regista, sceneggiatore, interprete e anche un comico. Aveva per esempio firmato un intelligente mockumentary intitolato Guy, che era stato appunto presentato a Cannes, poi ha firmato altri film che hanno avuto sicuramente un rilievo più nel cinema francese che italiano. Qui ha lavorato molto anche a fianco di Karine Viard, una delle grandi star del cinema francese. Ricordiamo film come La famiglia Bélier o Polis, e hanno in parte scritto insieme questo film particolare, perché è sì una grande produzione francese, ma è un film in realtà girato in sole 14 notti a Parigi, quasi tutto per strada, quindi c'è anche una bellissima immagine della città notturna, e parte di questi dialoghi d'amore, questi dialoghi che approfondiscono il tema delle relazioni, della fedeltà, della stima reciproca, della seduzione tra un uomo e una donna, sono stati in parte improvvisati o scritti insieme con l'attrice. Quindi c'è un lavoro di sceneggiatura e poi c'è un lavoro di improvvisazione ulteriore che ha arricchito il loro lungo dialogo di sfumature davvero interessanti e intense. I riferimenti web per sapere le sale? Usciremo in un certo numero di sale, speriamo consistente, tutto può essere sempre consultato in aggiornamento continuo sulla pagina www.wantedcinema.eu. Il film Sconosciuti per una notte di Alex Lutz al cinema da giovedì 28 agosto 2025. Un saluto e un ringraziamento a Michele Sancisi di Wanted Cinema che lo distribuisce. Alla prossima! Grazie, alla prossima! Con Gianluca Guzzo di My Movies, che in occasione della 82esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, la Biennale di Venezia, presenta una selezione di film da Biennale College e Giornate degli Autori nella sua sala web, dal 27 agosto al 6 settembre 2025. Ben trovato. Ciao Federico, eccoci al nostro consueto appuntamento anche quest'anno. Sì, raccontaci un po'. Anche quest'anno, ancora una volta, è una edizione brillante, devo dire, con 22 anteprime mondiali direttamente dal Lido di Venezia, come sai, sempre in contemporanea con le proiezioni ufficiali, e siamo molto curiosi di vedere questi film che, esattamente come dicevi, arrivano da Giornate degli Autori e Biennale College Cinema. Come mai da queste due sezioni? È una selezione di film che è curata dalla Biennale a micro budget. Sono sicuramente delle opere che vedono dei talenti alle loro prime attività, alle loro prime sperimentazioni. Sono i talenti che con molta probabilità poi vedremo con un certo successo. Quindi sono quelle opere che probabilmente devono essere più viste, quelle opere che devono essere accompagnate e che abbiamo l'opportunità poi di far arrivare ai nostri spettatori. Dando un'occhiata al programma complessivo, che te ne pare? È un programma straordinario. Ogni anno i direttori e i programmer della Mostra di Cinema ci stupiscono e ogni anno riescono poi a superarsi nella selezione. È una straordinaria selezione che quest'anno ci sono autori e autrici importanti, italiani, ed è assolutamente un festival che va gustato fino in fondo. Chi non potrà essere a Venezia, noi, come sai, sempre cerchiamo di invitare il pubblico a seguire poi i film in sala con i grandi schermi, però insomma l'opportunità di poterli vedere poi direttamente a casa e in qualche modo anche la possibilità di avere un contatto diretto con il Lido di Venezia, e questa è sicuramente una grande opportunità. Vediamo come funziona tecnicamente. Basta avere un abbonamento a My Movies One per accedere a tutta la library di My Movies. L'accesso è veramente semplice, sia da un punto di vista economico, devo dire, assolutamente, proprio perché poi l'obiettivo è di diffondere il più possibile la cultura cinematografica, ma sia anche tecnicamente, quindi basta entrare, vedere il programma. Ricordiamo che la trasmissione è contemporanea con le proiezioni al Lido, quindi un vero e proprio programma, dopodiché i film staranno online tra i 3 e i 5 giorni. Abbiamo film dalla Cambogia, dal Kenya, dalla Francia, dalla Spagna, un film iraniano, un film messicano. Diamo i riferimenti web? mymovies.it, all'interno della home page poi troverete il modo per arrivare alle pagine interne e quindi navigare all'interno del sito. Ricordiamo che poi ci sono altri 50 titoli della mostra del cinema delle edizioni precedenti, c'è una bellissima serie TV che era due anni fa alla mostra del cinema, Of Man and Blood di Gianno Lì, che insomma è una magnifica serie TV che insomma è sempre disponibile ed è sempre disponibile all'interno di questo pacchetto di film. mymovies.it, basta entrare, abbonarsi e iniziare a godersi lo spettacolo. La sala web su mymovies.it, in occasione della 82esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, la Biennale di Venezia, presenta una selezione di film da Biennale College e Giornate degli Autori dal 27 agosto al 6 settembre 2025. Un saluto e un ringraziamento a Gianluca Aguzzo. Alla prossima! Alla prossima, Federico! Grazie! Con Giovanni Pompili di Kino Produzioni per presentare il film Splendida Imperfezione di Michiel van Herp al cinema da giovedì 21 agosto 2025, ben trovato. Ben trovato, grazie. Di cosa si tratta? Splendida Imperfezione è un film che ribalta un po' la storia che conosciamo di Giacomo Casanova ed è questa la prima cosa che mi aveva incuriosito quando ho parlato con Maarten Zwart, produttore olandese. Il fatto del raccontare e ribaltare il punto di vista su una storia che è stata un po' trita e ritrita, insomma, quella di Giacomo Casanova è stata raccontata un po' in tanti modi diversi anche ultimamente. E invece questa era la storia appunto del primo amore di Casanova, che è una storia poi tutta al femminile, cioè Casanova è un oggetto, è un elemento che serve allo sviluppo poi e al percorso di Lucia, di questa donna, che imparerà anche a trovare un suo percorso per avere indipendenza, per avere la capacità di gestire il proprio destino. C'era questo elemento qui e poi c'era un altro elemento che era Erwin Olaf, uno dei fotografi contemporanei più interessanti. Ed Erwin doveva fare la regia di questo film, insomma l'idea di farci un film era venuta a lui. Poi si è ammalato e quindi diciamo ha seguito artisticamente Michiel, con cui c'aveva un rapporto artistico, l'ha seguito sullo sviluppo poi del lungometraggio. Però ecco, uno degli sguardi di fotografia contemporanea tra i più interessanti è ribaltare una storia che conosciamo sempre dall'unico punto di vista, erano insomma i due elementi che mi hanno fatto dire ok, qui c'è qualcosa di interessante, andiamo. Cosa ti ha convinto poi nella realizzazione? Come tutte le cose ci sono i processi, non è tutto così immediato, cioè ci può essere un punto di partenza che è convincente e poi ci sono i percorsi con cui si affrontano le sfide. Abbiamo avuto una gestazione abbastanza lunga, anche perché trovare poi un equilibrio di scrittura, di trasposizione, il film è tratto dal libro di Arthur Chapin, Negli occhi di Lucia, che è stato appunto un caso letterario in Olanda, e comunque Arthur ha una grande sensibilità, ma non è uno sceneggiatore e bisognava trovare una penna e uno sguardo giusto per affiancarlo, per trasporre poi la storia di Lucia nel linguaggio cinematografico. E questo non è stato così immediato. Cioè, ci siamo arrivati con un po' di tempo, un po' di prove. Se poi il percorso di sviluppo non ti porta a un risultato soddisfacente, non si va avanti. E invece diciamo che siamo riusciti poi ad avere una sceneggiatura che rappresentava anche la complessità per raccontare appunto un punto di vista femminile. E da lì, insomma, poi i partner che abbiamo, olandesi, ci hanno dato anche una serie di garanzie. Loro sono produttori che fanno di solito dei film anche un po' più commerciali, però sono anche quelli che hanno fatto Dunkirk, per dire, no? Quindi comunque hanno un'expertise anche sui film d'epoca. Per noi era una sfida, anche quello è uno dei motivi che mi ha fatto andare avanti, no? Una sfida, cioè fare un film ambientato nel Settecento ma con uno sguardo anche abbastanza contemporaneo, insomma non era scontato. Quello sicuramente mi ha convinto, cioè fare sempre le stesse cose non è una cosa che mi ci appartiene, quindi ogni volta cerchiamo di fare qualcosa di nuovo, qualcosa in più, ecco. Che distribuzione sarà? Il film in Olanda, in Belgio, in alcuni paesi è andato al cinema, poi è andato su Amazon Prime. Qui in Italia stiamo iniziando la distribuzione in alcuni tra i migliori cinema. È sicuramente la distribuzione estiva, non abbiamo dietro grandi major distributive, ma contiamo molto sul passaparola. È uscita una bellissima pagina sul Corriere della Sera di Stefania Olivi, un'intervista a dare alla protagonista. È un film che riesce a parlare a un pubblico molto ampio. ampio. Avremo sicuramente un lavoro di distribuzione territoriale anche nelle regioni in cui è stato girato, il Veneto anche meno rappresentato, cioè non soltanto Venezia, dove ci stanno appunto delle scene in alcuni palazzi molto belli, cioè c'è una scena a Palazzo Pisani Moretta che è stata girata tutta a lume di candela con 120 comparse e la musica diegetica con questo gruppo che suonava musica del Settecento. C'è una resa fotografica anche molto interessante, e poi c'è Padova, ci sta la Campagna Vicentina, le Ville Palladiane, Orgiano, e faremo appunto un lavoro sul territorio. Penso ai cinema di Treviso, di Mestre, di Padova, con cui stiamo collaborando per fare delle proiezioni speciali. Ci sono dei riferimenti web per sapere dove andare a vederlo? Sulle pagine Instagram, Facebook, social di Chinoproduzioni. Il film Splendida Imperfezione, Il primo amore di Casanova, di Michiel van Herp, al cinema da giovedì 21 agosto 2025. Un saluto e un ringraziamento a Giovanni Pompili di Chinoproduzioni. Alla prossima! Grazie Federico, grazie a tutti. Con Luigi Musini, distributore con Cinema 11, per presentare il film Il Mahabharata di Peter Brook, al cinema in versione restaurata da mercoledì 20 agosto 2025. Ben trovato! Buongiorno! Presentiamo questo lavoro. Cos'è Il Mahabharata? Mahabharata è una cosa senz'altro eccezionale sotto moltissimi punti di vista, per la storia, che è una storia senza tempo e quindi molto attuale anche oggi, per come è stata rappresentata da Peter Brook, che di per sé è stato un regista di teatro eccezionale, che è riuscito in spazi ristretti a riproporre questo poema epico con un successo clamoroso, e poi la fase successiva in cui l'ha trasferita in questa versione cinematografica, dove è riuscito a condensare tutta la storia e tutte le emozioni, e quando è uscito in effetti ha avuto molto successo ed è stato riconosciuto a Brook di aver fatto un'opera assoluta e senza tempo. Come nasce quest'idea del restauro e della riuscita al cinema? Io avevo distribuito appunto verso il 90 il Mahabharata originale, dopodiché ero rimasto più o meno sempre in contatto con Peter Brook e la sua famiglia. Lui a un certo punto si è fatto vivo perché voleva produrre un documentario e ci ha chiesto di farlo con lui. Abbiamo partecipato, il documentario si chiama Tightrope ed è fra l'altro bellissimo, racconta il suo modo di lavoro, è stato presentato a Venezia. Poi purtroppo Peter Brook è mancato, io sono rimasto in contatto con il figlio Simon, che un po' di tempo fa mi ha aggiunto a una chat di persone che in qualche modo erano state legate a Peter Brook e all'esperienza del Mahabharata. Da lì ho scoperto che il Mahabharata stava uscendo in tutto il mondo in modo diverso, eccetera, eccetera, però con grandissimo successo a Sydney, a Londra, a New York. Allora mi sono messo in contatto con Simon e gli ho proposto di far uscire il Mahabharata nella versione restaurata, che è bellissima perché è stato fatto un lavoro splendido, e rapidamente ci siamo messi d'accordo poco prima dell'estate ed eccoci qua col film che esce in tutta Italia. Sono molto molto contento di questo. Possiamo aggiungere qualcosa dal punto di vista tecnico sul lavoro di restauro? Non è la mia cosa, so che è stato fatto un lavoro molto approfondito, tant'è che proprio il lavoro di restauro ha vinto diversi premi. È stato un lavoro ovviamente molto impegnativo, sia per le caratteristiche del film, sia per la lunghezza, che è lungo più di 3 ore, e poi ci sono tanti effetti di luci, di colori molto importanti. Un lavoro molto difficile che però ha portato a un risultato veramente eccezionale. All'estero com'è stata l'uscita in versione restaurata? È uscito in modo diverso nei vari paesi, ovunque ha avuto un grandissimo successo. A Londra credo che sia ancora in programmazione ed è uscito a metà luglio. Che uscita sarà in Italia? Esce in tutte le città importanti, in una ventina di copie, e poi proseguirà allargandosi in altre località. Comunque è un'uscita importante. So che a Milano è all'Anteo, a Roma al Quattro Fontane e mi pare al Greenwich. Lo avevi già portato in Italia nel 1990. Cosa avevi amato allora di questo film? La novità, la particolarità, l'operazione. Io ho fatto il distributore per tanti anni, eravamo sempre alla ricerca di cose un po' particolari che stupissero il pubblico, e questa è una cosa che senz'altro non lascia indifferenti, insomma, è veramente un'opera importante nella storia del cinema e del teatro. Il film Il Mabarata di Peter Brook al cinema in versione restaurata da mercoledì 20 agosto 2025. Un saluto e un ringraziamento al distributore Luigi Musini di Cinema 11. Alla prossima! Grazie a voi, alla prossima. Ciao, buona giornata. Ciao. Con Michele Sancisi di Wanted Cinema, che distribuisce il film Caravan di Susanna Kirchnerova al cinema da giovedì 7 agosto 2025. Ben trovato. Ben trovato a te e ai tuoi ascoltatori. Raccontiamolo. Caravan è un'uscita per noi interessante, anche se esce in agosto, ma insomma noi crediamo sempre nella vita del cinema anche in estate in Italia, è un nostro punto di orgoglio, ecco, che vogliamo portare avanti con film di qualità. Caravan è un film di esordienti, sia alla regia che nel cast, per lo più esordienti, che ha una forza molto particolare, un film interpretato soprattutto da attori non professionisti, che quindi ha un grande impatto di verità narrativa nella storia che racconta. Si tratta della storia di una madre single con un figlio affetto da una disabilità cognitiva, da una sindrome di Down e anche da autismo, ha difficoltà nella vita di relazione con gli altri a causa dell'imprevedibilità di questo ragazzo. A un certo punto prende un caravan, appunto, e parte con lui per un viaggio senza mappe lungo le regioni italiane, dall'Emilia Romagna fino alla Calabria. Durante il viaggio incontra varie persone, tra cui una ragazza si chiama Zusa, con la quale si crea un rapporto a tre sempre più intenso, viaggeranno insieme facendo altri incontri e alla fine insomma cercando di creare nuovi equilibri affettivi tra loro. È un film molto emotivamente impattante, molto coinvolgente, anche con bellissimi scenari naturali. Della regista cos'altro sappiamo? Si era distinta a Cannes con un cortometraggio nel 2009, il cortometraggio del titolo Baba, è una storia basata sulla malattia, sul disagio. Dopo questa prima sua avventura a Cannes, è tornata quest'anno invitata nella sezione Uncertain Regard con questo film, il suo primo lungometraggio, che abbiamo visto proprio a Cannes, che ci ha subito conquistato, e poi è stato invitato anche al Gifoni Film Festival, dove la regista e il cast hanno partecipato e abbiamo potuto incontrarli. È un film prodotto dalla casa di produzione italiana Tempesta, con la quale avevamo già lavorato come distributori per Maria Montessori, uscito mesi fa con notevole successo, ed è girato in gran parte nelle regioni italiane dell'Emilia Romagna e della Calabria, tra l'altro con grandi problemi dovuti alle inondazioni che hanno interessato l'Emilia Romagna e anche nelle fasi iniziali delle riprese ancora problemi legati al Covid. Però nonostante tutte queste difficoltà, la regista è contenta di questa esperienza perché ha dato molta verità alla storia. Già lavorare con un bambino protagonista che è realmente affetto da sindrome di Down, questo David protagonista della storia, ha costretto naturalmente a seguire un ordine delle riprese, poi tutte anche le difficoltà tecniche che si sono verificate, insomma, hanno guidato un po' le riprese in una maniera tale che viene fuori un film che era un po' diverso forse da come era stato pensato, ma molto autentico e molto coinvolgente. Che distribuzione ha avuto all'estero? È un film nuovo, quindi dopo Cannes credo siamo stati i primi a distribuirlo. Il film uscirà nelle sale italiane con una quindicina di copie, visto che in agosto molte sale in città sono chiuse e ci sono soprattutto arene, però abbiamo un discreto numero di sale ancora aperte. Per il resto negli altri paesi credo che sia ancora in attesa di distribuzione. I riferimenti web per sapere dove andare a vederlo? www.wantedcinema.eu come Europa contiene sempre una pagina su ogni film, in questa pagina ci sono anche le sale che programmano il film. In questa settimana di esordio del film abbiamo soprattutto Milano e qualche altra località sparsa, poi speriamo di allargare il giro. Il film Caravan di Zuzana Kirchnerova al cinema da giovedì 7 agosto 2025. Un saluto e un ringraziamento a Michele Sancisi di Wanted Cinema che lo distribuisce. Alla prossima! Alla prossima e buone visioni! Con Lori Snese per presentare il suo film Una cosa vicina. Ben trovato. Ciao, ciao a tutti. Ce lo presenti? Una cosa vicina racconta la storia di un bambino e poi giovane uomo seguendo la sua crescita nella periferia orientale di Salerno, che cresce una vita tutto sommato simile a quella dei suoi coetanei, se non fosse per il fatto che è circondato da immagini e racconti di un passato in qualche modo glorioso, un passato familiare, e in particolare che definisce la figura di suo padre, un uomo sempre positivo, all'altezza della situazione e in qualche modo perfetto, ma crescendo scopre che l'uomo è venuto a mancare troppo presto quando era solo un bambino, è stato vittima di colpi di pistola nel corso di una faida e da questo momento per il protagonista comincia una ricerca della verità, una ricerca sulle sue origini, su chi fosse realmente suo padre e su chi lui stesso sia davvero. E questo percorso infatti, che lo accompagnerà per la maggior parte della sua vita, lo porterà in qualche modo a definire una volta per tutte la propria identità. Come nasce quest'idea? Il film nasce da una voglia di raccontare uno spaccato legato profondamente radicato nella mia città e nelle esperienze mie personali, ma con un taglio diverso sia da quello un po' chiuso della cronaca a cui siamo molto abituati, che tende un po' a chiudere all'interno di schemi precostituiti i concetti di bene e male, e d'altra parte siamo oggi anche abituati un po' anche a suoi fatti dal senso opposto del racconto della criminalità e della periferia che a volte, in particolare in tanta serialità televisiva, che tende a romanzare, addirittura eroicizzare certe figure. A me interessava un po' stare nel mezzo tra queste due realtà e raccontare un po' il punto di vista poi di chi resta, di chi si ritrova poi ad affrontare la realtà nel momento in cui il meccanismo di una famiglia apparentemente perfetta si inceppa e bisogna fare i conti appunto con ciò che resta e guardare avanti. Questa era l'idea che mi muoveva e mi interessava in qualche modo anche cercare di rappresentare i paradossi, perché poi si tratta di situazioni in cui il buon senso, la morale vengono contrastati poi dagli affetti e da sentimenti, sensazioni che andrebbero in direzioni opposte. Tutto questo ho cercato di inserirlo nel film. Com'è stato il lavoro con attori ed attrici? Il film si basa sul forte contributo dell'attore Francesco Di Leva, con cui ho confermato la collaborazione dopo il mio ultimo cortometraggio ZO, quindi confermando appunto un sodalizio artistico anche per future collaborazioni, e con lui c'è un rapporto ormai molto solido, è sempre molto interessante partire dal testo scritto ma poi rielaborare, fare in modo che la sua voce, la sua personalità venga alla luce ed arricchisca poi il testo. Questa è la maniera in cui mi piace lavorare. Stessa cosa che ho ripetuto lavorando per la prima volta con suo figlio Mario Di Leva, ed è stato interessante poi il lavoro che partiva dal padre e si ripercuoteva in qualche modo sul figlio, nel senso che entrambi interpretano lo stesso personaggio ma in età differenti, ed è stato interessante per me lavorare con entrambi cercando di valorizzare gli aspetti che hanno in comune, un timbro molto riconoscibile, ma anche le differenze che vengono fuori anche banalmente dall'esperienza e dall'età, ma tutto questo ha arricchito il lavoro. Che percorso farà il film? Verrà proiettato in anteprima festivaliera il 29 agosto alla Mostra del Cinema di Venezia. L'obiettivo è sicuramente poi di iniziare una distribuzione festivaliera, dopodiché verrà senz'altro costruita una distribuzione in sala. Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più? La pagina di Lapazio Film, che è la società di produzione che ha realizzato il film, e anche i canali social, quindi Instagram, Facebook e via dicendo, anche io attraverso i miei canali. La scelta del titolo? È un leitmotiv del film, nel senso che viene ripetuto dagli attori. La cosa vicina rimanda alla possibilità di seguire le orme dei padri, allo stesso modo prendere i vestiti, la posizione dei propri genitori, ma come si scoprirà nel film non è così semplice, in un senso o in un altro. Il film Una cosa vicina, un saluto e un ringraziamento al regista Loris Nese. Alla prossima! Ciao, grazie, alla prossima! Con Rosy Battaglia, regista del documentario Taranto chiama. Ben trovata. Grazie davvero Federico, ben ritrovato. Cos'è questo lavoro? È il tentativo di raccontare un futuro diverso di una città che in questo momento sembra condannata. Taranto sta chiamando, è una città di una bellezza unica, ma che sembra appunto condannata dai vari governi e da altri meccanismi di tipo economico, politico e di interesse a rimanere una zona di sacrificio. Ricordo che questa definizione l'ha data l'ONU. Taranto è una delle zone più inquinate della Terra, dove bambini, donne, operai stanno pagando tuttora un prezzo altissimo all'inquinamento causato dal siderurgico. Come nasce questo progetto? È il mio terzo documentario, come sai, e sapevo benissimo che era il più difficile, per cui per tanti anni ho rimandato questa storia, ma all'interno della rete dei cittadini, delle comunità che io come giornalista seguo e curo da tanti anni, la comunità dei cittadini reattivi, che vivono nelle aree più inquinate d'Italia, è nato con un gesto di solidarietà dalla comunità triestina che nel 2020, durante la pandemia, riuscì a far chiudere la ferriera di Trieste. È uno degli impianti, appunto, una fonderia più inquinante d'Italia. Un gesto di solidarietà con Taranto, questa associazione ha raggiunto il suo obiettivo, decide e me lo comunica di devolvere i suoi pochi averi a chi invece a Taranto combatteva con l'inquinamento. E in quel momento ho capito che questa storia poteva essere raccontata in maniera diversa e così è stato. Come lo hai strutturato? Il lavoro ha due parti, c'è una prima parte di forte denuncia che so che arriverà un po' come pugno nello stomaco, però volevo proprio raccontare quello che nei media mainstream non appare, cioè che cosa succede quando viene pubblicato un nuovo decreto salva Ilva o quando appunto sentiamo le agenzie e i telegiornali parlare della crisi occupazionale intorno a Taranto. Succede qualcosa di drammatico che io però negli anni, perché le riprese per questo film sono iniziate nel 2016 e l'ultimo fotogramma è di maggio del 2025, sono riuscita a carpire dei momenti drammatici ma molto forti che cercano di raccontare quello che patisce questa popolazione. Mentre la seconda parte, e approfitto perché ho visto che anche la Rai Linea Blu ha tenuto lo stesso approccio, ho raccontato, e non mi sono inventata nulla, la realtà sostenibile e di bellezza che questa città dal basso si sta costruendo. Quindi non è, come dice nel film molto bene, e lo ringrazio, Michele Riondino, Taranto non è la città dell'Ilva. C'è un insieme di ormai imprenditori, associazioni, piccole imprese votate alla tutela dell'ambiente e alla sostenibilità. E chi l'avrebbe mai detto? Come hai scelto i tuoi interlocutori e interlocutrici? È stato anche questo un lavoro basato su tanti anni di incontri e ricerche nel territorio. Sono stata una giornalista che ha consumato la suola delle scarpe e se non sbaglio sono 50 persone, personaggi di dato, molto affitta la ricostruzione, ma seguendo una sceneggiatura, un canovaccio dettato dagli eventi, ma che allo stesso tempo desse la possibilità a chi non sa nulla di Taranto, perché questo film è sì dedicato alle nuove generazioni, ai tarantini e alle tarantine, a chi per primo ha patito l'ingiustizia ambientale, ma soprattutto dedicato alle nuove generazioni, a chi deve sapere, deve capire. Quali sono le prospettive? Diciamo che il film è stato prodotto dal basso e anche addirittura da me coprodotto proprio per i problemi anche di tipo legale per uscire in Italia in questo momento raccontando e denunciando cosa sta succedendo a Taranto. Di fatto però questo ritardo ha permesso che il film uscisse nel momento, penso, forse nella storia di questa comunità e di quella fabbrica più cruciale. Le sorti si stanno decidendo in queste settimane perché appunto c'è una narrazione, una volontà politica che è stata, ricordo, condannata però dalla Corte Europea per i diritti umani 5 volte, dalla Corte Europea di Giustizia che con una sentenza storica l'anno scorso ha ribadito che se l'Ilva inquina deve chiudere, e c'è appunto un processo in corso a Milano. Però nello stesso tempo chi segue il telegiornale sa benissimo che le narrazioni ministeriali dicono ben altro, e qui è un momento cruciale. I cittadini e le cittadine, diverse associazioni stanno preparando un ricorso a TAR, la nuova amministrazione sta cercando di capire come muoversi in questa enorme responsabilità del futuro della città, e quindi il mio piccolo contributo a questa storia enorme è quello di far capire, e penso di esserci riuscita visto il calore con cui il lavoro è stato accolto anche dalle stesse persone che l'hanno costruito con me e non solo, può spiegare davvero cosa sta succedendo. Che percorso sta facendo il documentario? La scelta è stata di uscire, e devo ringraziare perché era un tentativo e c'è chi mi ha aspettato per tanto tempo, perché il lavoro è uscito con quasi 2 anni di ritardo rispetto a quello che avevo preventivato. C'è stata una scelta artistica, quindi prima di una distribuzione, comunque ricordo, questa è una produzione davvero indipendente, senza sovvenzioni, ahimè, di Film Commission e altri fondi, quindi solamente finanziata dai cittadini, associazioni, tantissime appunto fondazioni eccetera, che hanno aiutato me e la mia associazione Cittadini Attivi a coprodurre questo film. Quindi da una prima uscita artistica adesso stiamo lavorando sia per una distribuzione sempre dal basso in città cruciali come la stessa Taranto, come Genova ad esempio, dove anche lì si è tornato a riparlare di acciaio, in Friuli, Venezia Giulia, dove appunto è stata abbattuta la ferriera, e quindi c'è una distribuzione attraverso le comunità e una distribuzione anche, io penso e spero, di tipo politico, per cui anche in contesti istituzionali. Ci sono dei riferimenti web per saperne di più? Ci sono i social, Taranto Chiama, su Instagram e su Facebook. Sul sito di Cittadini Reattivi c'è l'indirizzo mail al quale scriverci per eventualmente organizzare una proiezione, un dibattito intorno al film, e c'è una pagina dedicata che stiamo ultimando perché, come ho detto, abbiamo chiuso le ultime riprese a maggio del 2025 con appunto l'incidente che c'è stato all'Ilva proprio nel giorno in cui appunto la Commissione europea ricordava l'Italia di una procedura di infrazione proprio sempre a seguito dell'inquinamento di questo stabilimento. E quindi qui l'appello è seguirmi, seguirci su, quindi, Rosi Battaglia, Cittadini Reattivi, Taranto Chiama, appunto, cittadinireattivi.it. Poi io mi auguro che il lavoro possa interessare distributori, piattaforme interessati, insomma, a collaborare con noi a diffonderlo, perché è un lavoro che permette davvero una comprensione su una storia molto complicata, ma che ci riguarda molto più di quello che pensiamo. Insomma, l'anomalia è che, essendo un lavoro che alla fine è venuto fuori un film, ma non con una produzione da film, quindi non so se recupererò quanto abbiamo tutti noi impegnato. A questo punto stiamo cercando di curare le proiezioni, vediamo se arriva qualcuno che ci aiuta in maniera diversa. Il documentario Taranto Chiama, un saluto e un ringraziamento alla regista Rosi Battaglia. Alla prossima! Grazie davvero a tutti voi, grazie Federico. Con Giuseppe Carrieri, regista del documentario Libro delle Ombre, Hiroshima 80 anni dopo. Ben trovato. Grazie, ben trovato a te, è un piacere e un saluto a tutte le persone che sono in ascolto. Cosa racconta il tuo documentario? La tappa Hiroshima è diventata una sorta di pretesto per guardare all'indietro e allo stesso tempo per capire il presente, nel senso che Hiroshima è una città che mostra la sua ferita ancora apertamente, però non ho voluto raccontarla attraverso la consuetudine degli apporti giornalisticamente, diciamo, determinati, delle interviste posate, non solo. Ho cercato di vedere la città attraverso proprio le sue sembianze più contemporanee, affidandomi a questa metafora delle ombre, perché sono rimasto molto colpito dal tema di quest'ombra che è rimasta scalfita sulla gradinata di una banca proprio pochi istanti dopo l'esplosione della bomba atomica. E questo consolidamento di un'ombra, cioè l'idea di qualcosa così effimero da un lato, ma così permanente da un altro, mi ha folgorato, mi è sembrata una chiave perfetta per raccontare anche con un linguaggio ibrido. Ci sono delle animazioni all'interno del documentario ad opera di Maria Matilde Fondi, anche un'occasione per raccontare il nostro presente, che in fondo vive della minaccia nucleare come non mai. Quindi il Libro delle Ombre è in realtà un'operazione sinestetica, perché un film non è solo un libro e si muove attraverso questa voce narrante di un viaggiatore che rimette piede a Hiroshima per capire in realtà dove siamo arrivati. Come ha origine questo lavoro? Ha origine in modo molto fortuito, perché da un lato c'è un'occasione, quella di raccontare questo lavoro attraverso una collaborazione per me preziosa con l'Università Yulm, in particolar modo coinvolgendo alcuni studenti della laurea magistrale in televisione, cinema e new media che hanno preso parte attivamente a tutte le fasi del progetto. Poi c'è stato un incontro importante, quello con l'Istituto Buddista Italiano Soga Gakkai, che ci tengo a sottolineare ha sostenuto il film con i fondi 8x1000 e che si è interessato in qualche modo a supportare la storia. E infine con la collaborazione non meno importante con TV2000, con cui io da anni realizzo una serie di documentari, non solo televisivi. E in qualche modo questa sinergia ha generato l'occasione. In più ci tengo a sottolineare Hiroshima Film Commission, che è l'ente istituzionale che regolamenta tutte le realizzazioni cinematografiche nella città di Hiroshima, entusiasticamente ha accolto il progetto vedendo nell'idea un'occasione e quindi ci ha aiutato moltissimo nel coordinarci negli incontri con gli Ibakusha, che sono poi le persone che hanno modo di raccontarsi e che sono i sopravvissuti ancora oggi in vita, ce ne sono sempre meno. E quindi senza Hiroshima Film Commission non ci sarebbe stata questo network locale anche di autorizzazioni rispetto ai luoghi dove abbiamo girato. In primis il Peace Museum, che è una sorta di grande memoriale dove abbiamo girato in un pomeriggio memorabile da soli, perché il museo era vuoto, alle 6 del pomeriggio, navigando attraverso tutti questi corridoi dove ci sono reliquie divise e soprattutto tante lettere che mi hanno particolarmente stordito, di gente che sapeva che non ce l'avrebbe fatta. Come viene fuori la scelta di questa ibridazione di linguaggi e di un linguaggio anche poetico? È una bellissima domanda e ti ringrazio, perché dal punto di vista registico per me è l'elemento più importante. Nasce da un'idea. Federico, tu conosci un po' il mio cinema, io cerco da sempre di guardare alla realtà come un grande deposito di storie, però allo stesso tempo il deposito di storie va messo in interazione con qualcosa che non svela se stesso immediatamente. Il cinema d'animazione in qualche modo crea questa suggestione di evocare senza mostrare direttamente. Una delle suggestioni che più mi ha colpito è che nella cultura giapponese, per raccontare i fuochi d'artificio, loro hanno questa metafora poetica, appunto, i fiori di fuoco. I fiori di fuoco sono in qualche modo la chiave analogica, metaforica, evocativa per raccontare il fungo. Ci tengo a ricordare che nel film non si parla mai di bomba. Si parla di fuoco, si parla appunto di fiori di fuoco, si parla appunto di nuvola. Questo per cercare di collaudare all'interno del registro documentaristico l'esperienza del mistero, che la realtà comunque mostra in se stessa, ma che noi registi dovremmo cercare di tutelare per non far sì che il lavoro sia solo un'evidenziazione di qualcosa già noto. Che esperienza è stata per te? A livello culturale indimenticabile. Io sono nato nel 1985, quindi 40 anni dopo l'esplosione della bomba, e la bomba atomica a Hiroshima e Nagasaki l'ho studiata fondamentalmente tra le pagine dei libri scolastici, quindi ho un ricordo scolastico. Essere entrato nelle case di tutte quelle persone che l'hanno vista proprio da vicino è stato un po' come chiudere un cerchio, quindi da un lato un'esperienza culturalmente arricchente, perché entrare nelle case degli Ibakusha ed essere ospitati da loro, come è un po' è successo anche in altri miei film, questa dimensione intima del racconto come segreto mi ha sempre colpito, perché credo che sia il vero segreto poi alla fine del raccontare storie. Ma da un altro, anche da un punto di vista culturale, la visita a Hiroshima, io sono stato in Giappone altre volte per altri film, ma Hiroshima è una città unica, perché è una città piena di futuro, però è una città che comunque non dimentica la cicatrice. Quindi è stata un'esperienza di riconciliazione con una parte di me liceale e da un'altra quella di un regista che comunque continua a voler fare l'esploratore, perché anche adesso mentre ti parlo sono in India per un altro progetto, è la parte di me che più cerco in qualche modo di tenere viva nonostante il passare degli anni. Il documentario ha avuto un passaggio televisivo in occasione della ricorrenza della bomba, però avrà anche una circuitazione nelle sale cinematografiche. Sì, esatto, hai fatto benissimo a rimarcarlo. Il film ha avuto una premiere televisiva nella sua versione televisiva il 6 agosto appunto alle 22.50 su TV2000, che ringrazio per l'occasione. Però ci sarà anche a partire dalla fine di settembre-ottobre una distribuzione mirata in sala in alcune città per far sì che comunque questo tema continui a propagarsi. Stiamo già individuando delle sale tra Milano, Roma e Napoli per riuscire a ottenere un audience ulteriore, sperando anche in collaborazioni con scuole, istituzioni culturali, centri di formazione, perché il film esiste al di là della trasmissione televisiva, che è stata importantissima, nella sua diffusione, divulgazione, anche se vogliamo uso un aggettivo responsabilizzante, didattica. Ad ogni modo il film resta nella piattaforma Play 2000, che è una sorta di piattaforma aperta dove c'è tutto il campionario dei documentari di TV2000, ma per tutte le informazioni comunque potete andare sul canale della mia casa di produzione, che è la Natia Docufilm, che è la casa di produzione che ha realizzato questo film appunto, sostenuto con i fondi dell'8x1000 dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai e con l'Università Yulm e ovviamente TV2000, e Natia Docufilm lo trovate come hashtag Natia_Docufilm. Il documentario Libro delle Ombre, Hiroshima 80 anni dopo. Un saluto e un ringraziamento alla regista Giuseppe Carrieri. Alla prossima! Grazie a voi, grazie veramente di cuore, a presto, alla prossima! Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.